Salve, da Radio Big World, un ulteriore incontro su mescolare acqua con vino. Io sono Pasquale, con cui passerete 10 minuti assieme. Vi auguro di stare bene, vi auguro di elaborare quelle cose di cui stiamo parlando e di cercare, se possibile, un confronto attraverso la Radio Big World. L'argomento di oggi sono i giovani e gli anziani. Se ne discute perché è una realtà che spezza il mondo sociale oggi, cioè gli anziani che vivono non male attraverso le pensioni o il capitalizzato di una vita e i giovani che non riescono a trovare, a garantirsi un lavoro per aver assicurato un piatto di pasta asciutta a mezzogiorno. Quindi una cosa molto elettrizzante, cioè che non passa in secondo piano, rapporti tra giovani e anziani, perché quelli bene e quelli male, perché quelli ricchi e quelli poveri, perché quelli che si possono permettere diverse cose e quelli che non si possono permettere quasi niente. Allora io vedo proprio una profonda analogia tra i giovani e gli anziani e la mescolanza dell'acqua col vino, no? Perché l'acqua, contrariamente a quanto appare, rappresenta gli anziani, perché da quando il nostro mondo è mondo l'acqua c'è sempre stata e si ricicla ovviamente, no? Attraverso l'evaporazione, attraverso il filtraggio della terra, eccetera. Mentre il vino si fa di volta in volta, anche un buon vino, vecchio che sia, di 5-10 anni, è un vino giovane rispetto all'anzianità dell'acqua, che è di migliaia e migliaia e migliaia di anni. Quindi il vino, il sapore, sono i giovani che, mescolati con la storicità, con la staticità dell'acqua che è stata all'anziani, possono portare una bevanda molto gradevole, quindi una situazione favorevole. In genere, giovani e anziani, si nasce, si è giovani e poi da anziani si muore. Ci sono delle eccezioni, ci sono gli incidenti in cui invece da anziani si muore anche da giovani, ci sono un'eccezione misteriosa che sono i bambini prodigio che nascono e sono già in qualche maniera adulti perché o sanno suonare un pianoforte o sanno dipingere o sanno cantare o altra cosa. Però la linea generale è: si nasce dipendenti da tutto, si cresce, si diventa giovani, si diventa anziani, si finisce il percorso. Secondo me questa vita, nascere giovane, anziano, è paragonabile a una bellissima strada che noi percorriamo dal primo all'ultimo giorno. Una strada che inizialmente è collegata alla terra e poi sale e va verso l'alto, va verso le nuvole, no? Pensiamo a quelle nuvole bellissime dell'autunno, una strada che sale dalla terra va dentro a quelle nuvole a fare che cosa? Questo per il momento non ci interessa, però si sa di sicuro che percorrendo questa bellissima strada avviene un fenomeno importante. Giorno dopo giorno tutti prendiamo coscienza di quello che ci circonda, della nostra persona, del nostro pensiero, cioè diventiamo più consapevoli, più autocoscienti, come si vuol dire, diciamo più consapevoli, è una parola molto chiara. E questa consapevolezza in realtà ci rende più leggeri, perché ci rende più facile capire come mai in quel momento succede quella cosa e in un altro momento succede una cosa differente, casomai tutte e due gradevoli, ma non contemporanee. Allora, questa attività di autocoscienza, di consapevolezza che noi si acquisisce, praticamente, secondo me, alleggerisce la nostra vita. E allora io vedo il percorso su questa strada come un percorso che parte dalla terra, dove noi siamo con le nostre caratteristiche, diciamo un po' appesantiti anche, e poi durante questo percorso attraverso la consapevolezza ci alleggerizziamo sempre di più, fino ad arrivare in cima a questa strada dove siamo come un alito di vento. Finita la strada, voliamo via, non sappiamo dove, ma voliamo via dalla pesantezza alla leggerezza assoluta. Considerando l'età dell'essere umano, bisogna vedere due aspetti fondamentali nel ciclo della vita. Uno è quello della giovinezza e un altro è quello della senilità, collegati alla nascita e alla fine da altri periodi di vita che tutti ben conosciamo. Ma sono la giovinezza e la senilità che hanno due aspetti caratterizzanti nella vita. La giovinezza è un momento in cui c'è un esubero di energie fisiche, di energie intellettuali, di energie riproduttive. La senilità è invece la decadenza fisica, è la decadenza anche se parzialmente intellettuale, è la decadenza riproduttiva. Ecco che queste due situazioni, che hanno molto di simile, in realtà sono speculari, cioè si contrappongono. Una è pieno e l'altra è vuoto. Se osserviamo bene questo fenomeno, bisogna riscontrare che queste, che si è detto, la giovinezza e la serenità, che sono le regole della vita di ogni essere umano, sono anche le regole che guidano l'universo. Infatti le stelle, le galassie nascono, si espandono, hanno vitalità e poi finiscono. Quindi si può ragionevolmente dire che la vita umana sulla Terra è simmetrica in analogia con quelle che sono le regole dell'universo. E questo qui è un aspetto importante, perché siccome anche noi siamo parte dell'universo, è chiaro che quando seguiamo le regole dell'universo siamo adeguati al luogo dove siamo. Quando invece le ignoriamo, siamo senza testa, sbandati. La differenza tra le regole dell'universo, quelle che dicevamo, delle galassie, e noi è il tempo. Una galassia impiega milioni, miliardi di anni per fare un ciclo che noi descriveremo con la parola vitale: nasce, si espande, si trasforma. L'essere umano impiega qualche decina di anni, ma si tratta sempre di un percorso collegato al tempo che, in relazione a chi lo percorre, richiede milioni di anni o decine di anni. Se poi pensate alla vita di un moscerino, le nostre decine di anni sono una quantità enorme, perché lui vive solo qualche giorno. Quindi l'evoluzione non ha come parametro il tempo, ma ha come parametro il tipo, le caratteristiche della evoluzione. Allora, se noi guardiamo più da vicino il ciclo naturale dell'evoluzione umana, vediamo un elemento importante che ci caratterizza. Dal momento della nascita, in cui si dipende dagli altri, al momento della giovinezza, in cui siamo esuberanti, al momento della senilità, in cui abbiamo bisogno di altri atteggiamenti che prima non apprezzavamo, constatiamo una cosa, che tutti, nella prima fase, nella seconda, nella terza, nella quinta, abbiamo la necessità di stare vicino agli altri, perché il nostro agire non è isolato. Allora bisogna capire che dentro alle regole dell'universo e nel nostro particolare della vita dell'essere uomo c'è la regola della solidarietà. E la solidarietà, che vuol dire darsi una mano per raggiungere le mete che ci interessa raggiungere, no? E la solidarietà non può essere a settori stagni. La solidarietà bisogna che metta insieme tutti gli esseri umani, indipendentemente dal colore della pelle, indipendentemente dal colore, dalla forma degli occhi. Chi non la pensa così, liberissimo di farlo, va fuori delle regole che regolano l'universo. E per rimanere in tema tra giovani e anziani, la diversità anagrafica tra gli esseri umani caratterizza i differenti comportamenti di ogni momento dell'età. Per esempio, i giovani portano esuberanza, utopia, i vecchi portano la loro esperienza, portano la storia, ma queste quattro cose sono indispensabili appena si comincia a capire e fino all'ultimo respiro. Quindi è assurdo pensare che ci possa essere una barriera tra il mondo dei giovani e il mondo dei senior, degli anziani. Ci sono situazioni diverse, ma non barriere. E quindi allora tutti bisogna utilizzare questo atteggiamento che si chiama solidarietà per vivere meglio il gusto della vita che ognuno di noi vuole assaporare, ecco. Qualcuno, forse per interessi, forse per preconcetti, forse per limitata apertura mentale, tende a contrapporre gli anziani ai giovani per il modo di vita differente che hanno. Quindi istiga gli anziani verso i giovani che con la loro esuberanza vorrebbero fare tante cose che agli anziani non interessano più. Istiga i giovani a contrastare gli anziani perché rubano loro l'aria. Non so se l'avete mai sentito dire questo proverbio. Sarebbe l'ora che tu finissi perché tu rubi l'aria, giovani. No, non è una cosa positiva nella vita umana pensare che tutto è fatto di lotta e di conquista. Ecco, allora credo che bisogna stare attenti tutte le volte e a tutte quelle strutture o a quelle persone che tendono a mettere in contrapposizione i giovani con gli anziani, perché tutti si fa parte di questa famiglia che è l'umanità, tutti si fa parte di queste regole che sono le regole dell'universo. E allora quando si trova qualcuno che intende dettare per interesse o altro regole nuove per gestire l'universo e la civiltà umana che è sulla Terra, quando si trova queste persone che vogliono rompere, bisogna stare attenti e, a parer mio, contrastarle se è possibile, o al minimo andarsene e non ascoltarle. Vi saluto, alla prossima, graditi i vostri confronti e salve!